motore del sentimento umano, gemma o sorarlo. Salta la stanza, ride lo stomaco. Muore il mondo intero, il mondo intero muore con i denti serrati e tu non lo sai, non lo sai. Ma rimaniamo solo io e te, soli, noi due, soli, noi due, da soli. Occhi che per te non hanno altro scopo, non mani che per te non hanno altro modo. Così non faccio altro che guardarti gli occhi e le mani, gli occhi e le mani. Io i tuoi occhi li bacerei leggero, io le tue dita le leccherei.